Con Antonio De Matteo, curatore insieme a Giorgia Cardaci dell'evento Dialogues for Gaza. A Roma, Villa Ada Festival, domenica 30 giugno 2024, ben trovato. Ecco, grazie mille, grazie per questo invito, grazie per questa opportunità. Ciao a tutti. Che progetto è questo? È un progetto di incontri, di dialogo con artisti, musicisti, esperti soprattutto, e anche per incontrare soprattutto il pubblico e le famiglie. Vogliamo che far conoscere il più possibile la realtà palestinese a quante più persone possibili, attraverso la sua cultura, attraverso la musica e il sostegno soprattutto di tanti artisti che tutti insieme finalmente si stanno mettendo al servizio della causa. Come nasce tutto? Dall'esigenza mia e di Giorgia, appunto, di far esporre e riunire molte più persone, perché naturalmente c'è chi si espone singolarmente, ma far vedere quanto siamo uniti per supportare la causa. Naturalmente da qua possiamo fare questo, possiamo mandare aiuti, possiamo fare tante cose, dibattiti, ma l'importante è non disunirci, come diceva un recente film. Com'è stata la scelta degli ospiti? È stata una scelta anche basata sul fatto della loro esposizione soprattutto, della loro voglia di raccontare questa storia e di metterci la faccia. E quindi abbiamo detto ok, non vogliamo soltanto condividere attraverso i social e stare ognuno in casa sua, ma soprattutto stare insieme e far vedere cosa significa sostenere una causa di pace fondamentalmente. La possiamo definire una chiamata alle arti. Come diceva un palestinese del Freedom Theater, la prossima intifada è quella culturale e noi vorremmo fare questo. Vorremmo dare un supporto a una prossima intifada culturale. Come si articolerà la giornata? Cominceremo alle 4 con la presentazione, con l'inizio dell'evento. Ci saranno laboratori per bambini di pittura, di cultura, di cibo, di danze anche. E poi ci saranno dibattiti, ci sarà musica e letture di testi appunto di Ghazal che ancora sono lì e di poesie di palestinesi che portano la loro cultura attraverso lo scritto. Quanto tempo avrà a disposizione ogni singolo artista o ospite? Dipendendo dalle situazioni, con i dibattiti saremo tra i 40 e i 50 minuti, saranno intervallati appunto da queste performance. Ci saranno performance varie, ci sono gli artisti che faranno 5 minuti, chi 10, chi 20 minuti. Ci saranno per esempio anche momenti un po' più leggeri con i ragazzi della Sciuscia di Casa, che sono Paola Michelini e Niccolo Segni. Poi ci sarà Lodo Guenzi, ci saranno Fausto Sciarappa, ci sarà Luca Sommi, Lia Greco, Elena Sofia Ricci, Greta Scarano, Simone Liberati, cioè ci sono tante persone che hanno risposto a questa chiamata ed è stata veramente una generosità incredibile. Per i momenti di dibattito, su quali tematiche avete voluto centrarli? Cominceremo con un panel sulla guerra, che non è mai umanitaria, appunto, facendo intervenire anche molti esperti, sia giornalisti che proprio geopolitici, sia operatori umanitari. Poi ci sarà la questione dei bambini, che è fondamentale, questo eccidio di massa, e alla fine un'idea di raccontare e un po' sciogliere la questione delle fake news, dell'intelligenza artificiale e tutto ciò che in un conflitto bellico, come abbiamo visto, è quello che sta avvenendo, e sciogliere un po' di piccoli dubbi e innestare un piccolo seme di pensiero critico. Abbiamo deciso di chiamarlo Dialogue for Gaza proprio perché l'etimologia della parola dialogo, cioè dia più logos in greco, significa proprio attraverso la parola, oppure metà e metà sempre attraverso la parola, cioè si addiviene una posizione comune col dibattito. Quindi sarà una giornata in cui non si cercheranno ovviamente impossibili soluzioni e critiche feroci al conflitto, ma si cercherà un punto di partenza appunto attraverso l'analisi dei vari opinionisti, dei geopolitici, di tutti coloro che sono stati a Gaza, cooperanti, attivisti e quant'altro, naturalmente i più quotati, i più referenziati a parlare. E poi per il resto si narrerà la cultura palestinese attraverso l'arte, la musica, la danza, la cucina, la poesia, i testi. Per la creazione di questo momento, quali sono stati i contatti diretti con Gaza? Albana Bulzi, Francesca Albanese, sono persone che hanno lavorato e continuano a lavorare sul campo, c'è Michele Giorgio del Manifesto, anche i referenti umanitari di Medici Senza Frontiere, insomma sono loro che porteranno la parola di Gaza qui in Italia. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Innanzitutto sui nostri social, quindi Antonio De Matteo Real, che è il mio, quello di Giorgia Cardaci Off e poi quello di Villada. E tutte le persone che lo stanno condividendo potete trovarlo su tutti i nomi che ci sono in scaletta, poi ognuno degli artisti sta ripostando tutto, e anche sul sito di Medici, di Oxfam e, come dicevo, appunto di Villada. L'evento Dialogues for Gaza a Roma, a Villada Festival, domenica 30 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Antonio De Matteo. Alla prossima! Grazie mille, un ringraziamento particolare a Fumetti Brutti che ha curato la copertina. Grazie! Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Andrea Baroni, regista del film Amen, al cinema da giovedì 27 giugno 2024, ben trovato. Buongiorno a tutti e ciao Federico. Qual è il tuo racconto? Amen è la mia opera prima e nasce da una suggestione. Io ho visto un casolare nell'entroterra laziale, mi sono innamorato e suggestionato e nell'arco di pochi giorni ho scritto un racconto che parlava della mia adolescenza e dei miei limiti, e quindi nella scrittura poi ho messo tutto quello che era il sentire sia delle prime volte che del limite religioso, sessuale. Mischiandoli insieme ho trovato una famiglia molto dura, appunto, con una matriarca che gestisce tre figlie e che non le ha di fatto mai fatto uscire da questo casolare. Com'è venuta l'idea da un casolare a questa storia con una madre e tre figlie? È il potere della creazione e della suggestione. Sicuramente sono affascinato dal nucleo familiare, dalla potenzialità di una famiglia larga, l'ho vissuta, ho vissuto forse anche un'esperienza matriarcale, nel senso che nella mia famiglia dalla bisnonna alla nonna alla mamma hanno sempre avuto il controllo un po' in maniera dolce della famiglia, e forse è stato poi naturale riportarlo anche nel mio primo film. Com'è stata la ricerca delle tue attrici? Grace Ambrose, che interpreta la protagonista Sara, era un'amica, avevamo già lavorato insieme, e quando in velocità ho dovuto fare un casting, perché è stato effettuato in sole 2 settimane la preproduzione, è stato naturalissimo affidare a lei il compito più arduo. E Francesca Carraina e Valentina Filippeschi sono state delle scoperte in un rapidissimo casting che si è rivelato quasi magico. Quando ho unito le tre sorelle ho capito che avevo più di metà del film, perché funzionavano, e di fatto non solo nel film ma addirittura nella realtà poi le ragazze sono diventate amiche, e quindi poi il resto del casting è arrivato molto casuale ma estremamente giusto. In questa storia familiare e di isolamento, su quali elementi hai voluto centrare l'attenzione? Sicuramente il tema del limite è quello che mi interessava esplorare di più, e quindi le tre sorelle, rispetto a un limite dogmatico e familiare imposto dal padre e dalla nonna, lo devono declinare, e lo fanno tutte in maniera differente. C'è appunto il personaggio di Esther, che è rivoluzionaria e vuole assolutamente essere contro la famiglia e il dettame e cerca la fuga. C'è il personaggio di Miriam, la più piccola, che invece è ancora dogmatica, che deriva dall'esempio familiare e ancora dentro quel tipo di credenza. E poi appunto Sara invece rappresenta proprio il dubbio se varcare o meno quel limite, poter avere un'esperienza sensoriale e sensuale e scoprire qualcosa che è il peccato, è al di là del limite, e ovviamente poi queste scelte determineranno il percorso anche familiare che c'è all'interno del film. L'hai ambientata al giorno d'oggi? No, il film è un non luogo, non tempo, ed è volutamente scritto e girato in questa maniera, come se potesse essere caratterizzato in maniera universale. C'è un riferimento, le ragazze hanno un unico contatto con il mondo esterno che è la radio, e questa radio ha un programma molto rosa, appunto, che gli fa ascoltare delle canzoni, e queste canzoni sono tutte uscite prima del 1978, quindi se vogliamo proprio dargli una data è appunto al limite degli anni 80, ma in realtà nel film non viene mai citato. Questo titolo da dove viene fuori? Ovviamente dal campo religioso che esploriamo, e poi sinceramente al montaggio l'ho sentito talmente tante volte ripetere dagli attori e quindi dai personaggi che li rappresentavano, e che è stato molto naturale dare poi questo titolo al film. In ogni caso, inizialmente il film si chiamava E così sia, che è la versione italiana della parola Amen. Poi ho scoperto nel tempo che già altri maestri del cinema, come Kinky Duck o Costa Gavras, avevano dato lo stesso titolo ai loro film. Ho detto, devo fare un passo indietro, non voglio rimanere bruciato. Invece Fandango mi è proprio esortato a lasciare il titolo, che secondo loro funzionava e non era un problema appunto neanche di copyright, e sono contento che sia questo. Secondo me riassume molto quello che è anche non solo il concetto del film, ma la narrazione. Che percorso ha fatto finora il tuo film? È stato presentato a Milano e poi in settimana avremo varie tappe, lo presenteremo prima a Roma, Pisa, Firenze, e poi ci sarà l'uscita in sala, e quindi il percorso che seguirò attraverso tutte le altre città dove saremo, che sono Napoli, Bologna, Torino, ritorneremo ancora a Milano, quindi sicuramente saranno due settimane importanti per il film, che è così piccolo, che è indipendente. Io ringrazio Fandango che ci dà questo tipo di occasione in un momento estremamente difficile per il cinema. Che uscita sarà? In quante sale? Penso che ci saranno 50-60 copie, ma la cosa importante è proprio raccontarlo, coccolarlo un po' questo film nella sala giusta, quindi non mi aspettavo di uscire in più di 100-200 copie, non serve, l'importante è proprio andarlo a raccontare nei posti giusti. Ci sono pagine social, siti internet per saperne di più su dove vederlo? Sicuramente Fandango in questo momento, il sito e anche Instagram, TikTok, YouTube sono attivi, rilasciano trailer, hanno rilasciato delle clip, delle immagini. Quello è il punto per cui tutti sappiamo e tutti possono sapere di Amen. Film Amen al cinema da giovedì 27 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Baroni. A presto! Ciao Federico, grazie! Con Pietro Porporati, uno dei registi della docuserie Zona Protetta, dal 28 giugno su Rai Play e poi dal 7 luglio su Rai 3. Ben trovato. Grazie di avermi ospitato, è un piacere. Raccontiamo cos'è questo progetto. Zona Protetta è una docuserie composta da 10 episodi che racconta delle case famiglia, nello specifico di appunto 10 ragazzi, ogni episodio corrisponde alla storia di uno dei ragazzi, che o hanno passato un periodo della loro vita all'interno di una casa famiglia, o comunque ne sono usciti, da qui il titolo, insomma, Zona Protetta, comunque passati dalla casa famiglia che ha rappresentato per loro un luogo sicuro. Ecco, perché questi sono tutti ragazzi che hanno avuto in qualche modo dei passati traumatici alle spalle, con magari figure genitoriali o comunque familiari abusanti, e per cui poi, dopo un'infanzia turbolenta, gli operatori, che anche noi abbiamo avuto modo di conoscere, insomma, di raccontare, li hanno presi in carico e hanno seguito per un percorso psicologico e soprattutto affettivo con loro, per cui in parte aiutati e guariti, diciamo, rispetto a un'esperienza molto, molto dura, ecco, che ha fatto parte delle loro esistenze. Per cui sono storie emotive, storie in cui questi ragazzi anche hanno avuto modo attraverso le riprese di raccontarsi, e quindi è stato anche forse terapeutico per loro, ecco, girare questa serie. Come ha avuto origine questo progetto? Grazie a Paola Panicelli. Paola Panicelli è un'autrice, diciamo, lei ha curato il concept di serie, appunto, di Zona Protetta. Lei aveva già ideato nel 2019 Poet, che era un altro progetto sempre finanziato da Rai Fiction come Zona Protetta, che raccontava appunto sempre di ragazzi con passati difficili o usciti dalle comunità o dal carcere, che in quel caso invece iniziavano un percorso insieme a piedi da Roma a Santa Maria di Leuca in Puglia, insieme anche ad altri operatori, ecco. Dopo quell'esperienza lì, Paola Panicelli è entrata in contatto con Tito Baldini, che invece è uno psicanalista molto importante, che fa parte della Società Psicanalisti Italiani, e insieme hanno pensato appunto di cercare di raccontare anche il mondo delle comunità, questi ragazzi, e cercare appunto, attraverso anche, come ho detto prima, le nostre riprese, di poter, insomma, cercare di poterli anche aiutare in qualche modo, di poter mostrare che, insomma, erano in grado anche di esporsi, ma in un modo emotivo, in un modo profondo, ecco, e che hanno pensato che questo poteva aiutarli. E quindi grazie a loro due siamo stati poi contattati noi registi e abbiamo passato un lungo periodo di 6 mesi e più nelle comunità, nelle case famiglie, abbiamo conosciuto questi ragazzi e piano piano abbiamo conquistato la loro fiducia, ecco, cercando poi di portare un lavoro più serio ma anche più sincero possibile. Che esperienza è stata per te? Molto forte, appunto. Nel mio caso ho seguito la storia di Blessing, che è una ragazza nigeriana, e il mio episodio racconta appunto della sua uscita, in questo caso dalla casa famiglia, perché lei al compimento dei 18 anni sarebbe dovuta uscire dalla casa famiglia, perché insomma questi ragazzi possono stare fino ai 18 in casa famiglia, fino alla maggiore età, e poi devono uscire, ahimè, dalla comunità. In questo caso quindi io ho raccontato gli ultimi giorni di permanenza di Blessing, di questa ragazza, all'interno della casa famiglia, e poi la sua uscita molto difficile, che era come appunto lasciare poi un posto sicuro, un posto che l'aveva accolta, che l'aveva curata, e tornare invece in un mondo, insomma, che per lei era molto difficile raccontare, ecco. Quindi questa è stata una delle storie. E l'altra storia invece era quella di Vanessa, una ragazza di origine rom. Anche lì ho fatto un lavoro molto difficile con lei, nel senso che poi, appunto, dopo aver conquistato la sua fiducia, siamo riusciti a tornare nel campo rom dove lei era cresciuta e dal quale poi era dovuta, insomma, andare via, appunto, nella casa famiglia. Siamo riusciti a tornare lì e quindi lei ha avuto un confronto con sua zia, con i suoi familiari, dopo tanto tempo, e questo è stato ripreso, perché appunto parte del lavoro che gli operatori fanno con questi ragazzi è quello di non rinnegare o comunque cercare di processare, di lavorare quello che sono le loro radici senza negarle. E quindi è stato molto forte andare con lei, tornare lì nel campo dai familiari e riprendere questo momento. Quindi per me è stato un lavoro che ho fatto vicino a loro, molto forte e duro. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Uscirà dal 28 di giugno su RaiPlay e poi dal 7 in terza serata su Rai 3, 2 puntate a sera, una volta a settimana. Mentre su RaiPlay già dal 28 usciranno tutti e 10 gli episodi. Stanno per essere pubblicate delle clip, un trailer, un promo, insomma, che la Rai ha fatto. Verranno pubblicate sui social, sui riferimenti RaiPlay e Rai Fiction, delle clip, delle immagini della serie. Che formato è stato scelto? La durata di ogni episodio? Di 25 minuti, quindi sono 10 puntate da 25 minuti l'una. Devo dire la verità, è stata una scelta più che artistica, diciamo, di tipo produttivo, perché è un formato che ora va molto, anche se invece secondo me queste storie potevano anche essere sviluppate maggiormente, quindi poi il formato abbiamo dovuto un po' cercare di concentrare gli avvenimenti appunto in questo limite temporale, però insomma poi le storie secondo me si prestavano anche a una durata maggiore. La docuserie Zona Protetta su RaiPlay dal 28 giugno e in terza serata su Rai 3 dal 7 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Porporati, uno dei 5 registi. A presto! Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie mille. Con Maurizio Scarcella, regista del documentario Benson, La vita è il nemico. Al cinema da febbraio 2024, ben trovato. Salve, salve a tutte e tutti, ciao Federico. Racconta di questo progetto. Benson, la vita del nemico, è un documentario che nasce, siamo quasi a 7 anni fa, nasce proprio con quello che è stato un incontro con Richard Benson ed Esther, al seguito del quale poi, in comune accordo, abbiamo deciso infatti di raccontare la storia di Richard. E il documentario parte alla fine del 2016, inizio del 2017, e ha un arco narrativo che segue l'ultimo anno di carriera effettiva di Richard. E è un documentario che nasce infatti, io come specifico sempre, in un momento della parabola di Richard, un momento in cui sia Richard che Esther, per chi è più affezionato si ricorderà, rilasciarono un video di richiesta d'aiuto su Repubblica TV, e molti fan, tra cui pure io che mi annovero come fan, vedemmo questo video e cominciammo a gravitare intorno a Richard. Richard in questo video chiedeva proprio una mano economica, e soprattutto anche al netto del fatto che aveva parecchi problemi di salute in quel periodo. E questa qua è una cosa che io ci tengo sempre a specificare, perché proprio, come dico spesso, se non ci fosse stato questo gesto di grande fiducia da parte di Richard e da parte di Esther, questo documentario non esisterebbe, come infatti tutte le persone che poi, spinte dall'amore per il personaggio della persona di Richard, hanno collaborato nell'arco del tempo. E il documentario infatti in sé è un documentario biografico che ripercorre, come dicevo, l'ultimo anno di carriera, ma che chiaramente cerca anche di ricostruire al meglio possibile, perché è stata una grande prova, quella che è la figura di Richard Benson, una figura comunque mistica che si trova perfettamente a cavallo tra quella che è stata una cultura underground prevalentemente della capitale italiana, Roma, ma poi soprattutto anche un personaggio capace perfettamente di inserirsi all'interno del contesto più mainstream. Infatti all'interno di questo documentario noi abbiamo avuto la possibilità di inserire delle interviste fantastiche che sono state rilasciate, in primis da Massimo Marino, altra figura cardine comunque delle nottate romane, e però anche altri grandi collaboratori più legati, come dicevo prima, a un concetto più mainstream, come Max Giusti, Chiambretti e Federico Zampaglione, grande artista che comunque ha collaborato con Richard e ha prodotto uno dei suoi album, L'Inferno dei Vivi. Il film in sé infatti cerca anche quindi di andare oltre a quello che è stata una visione stereotipata per tanto tempo, e di questa maschera che comunque, volente o nolente, Richard ha creato su di sé e che poi l'ha un po' condizionato. Che impressioni hai sul personaggio e che esperienza è stata realizzare il documentario? Questa è un'esperienza intimamente importante. Intimamente lo intendo nella misura in cui avere la possibilità di conoscere una figura come Richard, e come dicevo prima anche in un momento così particolare della sua vita, e avere la possibilità con un progetto indipendente, nato realmente dal basso, perché come diciamo quando facciamo le presentazioni del film davanti a un pubblico, anche con Esther, questo è un progetto nato realmente dal basso, da addetti ai lavori. Io come molti altri lavoriamo nel settore dell'audiovisivo, nel settore del cinema, e quindi è stata anche una scommessa con noi stessi cercare di realizzare un progetto in maniera indipendente che potesse essere comunque leggibile e inseribile anche all'interno di un circuito più grande di quello che comunque era all'inizio l'intenzione. E conoscere Richard è stato comunque, come ho già detto, un privilegio. Le impressioni infatti sono sempre state quelle che molto classicamente, quando si definisce una persona come Richard, ci si lasciava tanto, e soprattutto perché Richard era questo che aveva creato, condizionare da quel personaggio, da quella maschera. E quando poi chiaramente vedevi chi ci fosse dietro, e quindi una persona totalmente differente, una persona totalmente pagata, una persona anche da una profonda conoscenza tanto della musica, l'enciclopedia vivente, quanto anche proprio di quello dell'aspetto musicale a livello tecnico, ma anche una persona di una sensibilità unica, è un grande artista. E questa cosa chiaramente ti spiazza, e infatti a un certo punto è diventato nel corso del tempo una sorta anche di missione riuscire a portare avanti e a concludere nell'arco comunque di 7 anni questo documentario. E in tour da febbraio, ecco, che tipo di distribuzione hai immaginato? Saluto i ragazzi di Piano B Distribuzioni, che insomma a noi di Sarastro Film hanno messo le ali insomma con questo progetto. La distribuzione all'inizio doveva essere dedicata soltanto al settore romano e laziale. A un certo punto ci siamo resi conto, subito dopo l'anteprima avuta l'8 dicembre del 2023, in cui abbiamo fatto al Cinema Aquila, dove abbiamo fatto quasi 800 persone in più di uno spettacolo durante tutta una notte. Quindi in quel momento è uscita effettivamente la notizia dell'esistenza di questo documentario e sono cominciate a fioccare chiaramente le richieste un po' da tutta Italia. E da lì allora Piano B ha avuto la brillante intenzione di realizzare, come si fa magari per più nel contesto musicale, una sorta di tour e cercare di portare questo documentario alla disponibilità di tutta la grande rete dei fan di Richard.